ricordo una bellissima un intervento molto bello di Juan Pedro Villadrigue, che ci parlò un giorno, proprio parlavamo della sessualità, ci raccontò in ambito di orientamento familiare la storia di un'infermiera che era arrivata, che si occupava di malati che erano affetti dal Parkinson. Allora, questa infermiera doveva dare da mangiare a questo malato, che come sapete hanno difficoltà alla deglutizione, hanno difficoltà ad aprire la bocca, cioè hanno proprio queste problematiche. E lei giustamente era quasi inferocita, perché non riusciva ad imboccarlo, non riusciva a dargli a mangiare, e questa cosa gli creava molta ansia, molta... quasi rabbia, finché a un certo punto iniziò a guardare la bocca del malato come se fosse stata la sua bocca e iniziò ad imboccarlo come avrebbe fatto piacere a lei. E il malato mangiò e lei, così tornando a casa, ripensava un po' questo avvenimento, questa cosa che era successa, e tornando a un certo punto aprì la porta e vide il suo marito come sempre davanti alla televisione con i piedi poggiati sulla sedia che guardava la partita, e quando lei entrò aprì la porta e dice ciao tesoro, lui ciao, e continuò a leggere così come se non fosse entrato nessuno. E lei invece di seccarsi per la prima volta, perché di solito diventava furente e andava in cucina e sbatteva la porta, per la prima volta si avvicinò a lui così quasi in punta di piedi e iniziò ad accarezzargli il collo come non aveva mai fatto, e come se quel collo fosse stato il suo collo. E per la prima volta poi i due stettero insieme e fecero l'amore come non avevano mai fatto, cioè con veramente grande trasporto e grande intimità. Allora, se noi pensiamo, ecco, ripensando un po' a questa sessualità, no, come incontro di due corporeità, dobbiamo veramente avere presente questa cosa, no? Vedere l'altro, il corpo dell'altro, del coniuge che Dio ci ha messo accanto, se crediamo, e se non crediamo di quello che ci siamo scelti. E ci siamo scelti comunque ugualmente. Se in ogni caso, cioè di vedere l'altro, e quindi il corpo dell'altro, come se fosse un po' il nostro. E quindi di, in qualche modo, no? Di toccare anche quelle parti del corpo dell'altro che magari non ci piacciono tanto, comunque c'è la pancia di mio marito, una cosa che detesto, oppure, che so, la testa pelata di mio marito, che è una cosa... Pazienza, non me lo sono sposato così, no? Il mio ce l'ha tutti i capelli. E allora... pensare un po' anche proprio alla corporeità dell'altro, a tutte le parti, ecco, del corpo dell'altro come se fossero le nostre. Nessuno si ama più di noi stessi, cioè io penso che nella vita, cioè la cosa che sappiamo fare è quella di amarci profondamente, cioè ci vogliamo molto bene. E allora, almeno tendenzialmente è così. E allora impariamo ad amare anche l'altro nella sua corporeità, veramente come se fosse una parte di noi. E avremo, cioè già un po' avremo scoperto un po' la cartina di tornasole, no? Quando l'accarezziamo, pensiamo che quel collo è il nostro, che quella parte del suo corpo è la nostra. E proprio per questo l'amore poi diventa non solo quindi semplice atto sessuale, ma proprio un'unione di due corporeità profonda, che nel secondo aspetto è anche, come dice appunto Paolo VI, è un amore, quindi pienamente umano, ma è anche un amore totale, totale perché è proprio l'unione di due intimità, cioè in cui io mi dono all'altro senza riserve, cioè non ho più riserve, cioè io gli appartengo, ma gli appartengo anche nell'intimità. Oggi è un po' difficile parlare di questo, perché le coppie giovani hanno più difficoltà a farsi conoscere fino in fondo, no? A pensare di aprire la propria intimità all'altro, c'è un po' più di difficoltà in questo. Però se noi vogliamo veramente diventare una cosa sola col nostro coniuge, proprio la bellezza della relazione piena, della relazione coniugale, è proprio questo aspetto totale. Come diceva Sant'Ambrogio, in due che si baciano, cioè non ci sono solo due labbra che si incontrano, ma ci sono due anime, cioè c'è lo spirito di due anime che si incontrano. E quindi pensiamo proprio, cioè, all'unione totale, cioè un'unione veramente di due persone che si incontrano e mettono insieme se stesse. Per questo io dico, io non mi sento più tanto di Rosa, cioè ci ho impiegato tanto di Stefano, ci ho impiegato 17 anni, cioè o forse un po' meno, però mi sento più di Rosa, perché veramente è questa totalità, no? È fondamentale, è come mescolarsi, no? Come una magica fusione. Come diceva Plutarco, veramente l'amore è una magica fusione, cioè dove i due proprio si fondono, come si sciolgono, no? E vi volevo leggere una frase molto bella di Vittorio Hugo, vediamo se la trovo, perché l'avevo segnata, ma sono un po' disordinata, in cui parla proprio di questa fusione, di questa unione totalizzante. Lui dice, scrive, da tempo colei con cui ho dormito, o Signore, ha lasciato il mio letto per il tuo e siamo ancora completamente mescolati l'uno all'altra. Lei per metà viva, io morto per metà. E vedete un po' che bello, no? Essere mescolati, mescolarsi l'uno all'altro. Questa è la bellezza, no? Della relazione coniugale, cioè due entità che diventano una cosa sola, cioè riuscire a mescolarsi all'altro. Oggi con un termine che va molto di moda, l'empatia, no? L'empatia della relazione, mescolarsi, cioè io sono una, cioè penso come pensa lui, no? Perché non perché ho annullato me stessa, perché il nostro pensiero si è affinato talmente che siamo diventati una cosa sola. Sento il dolore come lo percepisce lui, o sento quello che lui sta provando. Quindi vedete un po' che bello riuscire a mescolarsi l'uno all'altro. E come per questo non basta soltanto l'innamoramento iniziale o la passione, ma ci vuole l'intenzionalità. Per cui, come diceva appunto Aristotele, l'amore è amare e volere il bene dell'altro. E anche il bene dell'altro che io vedo col mio intelletto e mi muovo verso questo bene e con la volontà libera proprio cerco di far sì che questo amore sia forte, sia vivo. E quindi cerchiamo veramente di avere intenzionalità. L'intenzionalità è di tenere vivo questo amore, cioè deve essere, cioè bello. Ci devo mettere tutta me stessa, tutta la mia intenzionalità per creare questo amore così bello. Io la mattina, quando mi alzo, c'ho sonno e non mi va proprio neanche di guardare l'altro perché sono stanca, oppure sono già in preda a tutto quello che devo fare, mi fermo, guardo l'altro e gli faccio quella carezza affettuosa, quel pensiero carino, ci vediamo più tardi, oppure non vedo l'ora che torni stasera o che ci rivediamo dopo che torno dal lavoro, no? Mettiamo l'intenzionalità. Il marito se la porta per tutta la giornata. Però dobbiamo abituare il nostro coniuge, dobbiamo creargli quella tensione, quella voglia di tornare. Cioè lui deve avere la voglia, di tornare a casa. Se il nostro coniuge non ha voglia di tornare a casa e perde tempo, allora interroghiamoci, perché abbiamo preso una brutta china. Il nostro coniuge deve avere voglia di tornare a casa e quando torna a casa non deve trovare la moglie rompiscatole che appena apre la porta gli dice è perché io sono stato i bambini stanca, c'ho questo, quest'altra cosa non va, si è rotta la lavatrice, abbiamo questo problema, no? Non funziona l'aspirapolvere, la signora delle pulizie non è venuta. Perché noi sta arrivando il nostro bene più caro, cioè la persona che abbiamo scelto, la nostra metà, una parte di noi, ci dobbiamo pensare, ci dobbiamo mettere l'intenzionalità. Io all'inizio veramente ci mettevo grande intenzione prima di lamentarmi, poi mi lamentavo lo stesso, però tendenzialmente ci mettevo l'intenzionalità, e poi devo dire con molto allenamento e molta fatica, perché come diceva la Binetti stamattina, la bellezza si raggiunge con grande sacrificio. Con molta fatica ora non mi lamento più, sono passati 17 anni, non so quanti serviranno a voi, però a me sono per adesso bastati. Però questo non è che basta, sono arrivata, no, cioè devo fare sempre meglio, cioè non mi lamento, mi tengo curata, cioè quando apre la porta gli do quel bacio carino, gli faccio trovare, cioè la casa accogliente, cioè voglio dire, ci vuole intenzionalità.